Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Allora, ieri, intervistato da una testata concorrente, il presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, ha ribadito la posizione dell'autorità garante del mercato sulla questione della commissione di massimo scoperto, cioè quella commissione detta in maniera molto semplice, qualcosa in realtà di un po' più articolato, che i clienti pagano alla banca quando il conto finisce in rosso in aggiunta agli interessi passivi, quella commissione che una legge qualche tempo fa ha voluto cancellare. Cosa ha detto Catricalà? L'obiettivo di legge di introdurre in Italia un sostanziale calo di queste commissioni non si è ottenuto e anzi in 5 casi su 7 si è registrato un aumento e in un solo caso una diminuzione. Peraltro una situazione che l'antitrust aveva già rilevato qualche settimana fa. Allora, come molti di voi ricorderanno, il governo con gli ultimi provvedimenti anticrisi ha varato un provvedimento che cancella questo onere, che pesa sui conti in rosso delle famiglie che possono avere piccoli sconfinamenti, ma pesa enormemente sui conti in rosso delle imprese che operano normalmente con conti molto flessibili e operano frequentemente con scoperti di conto del tutto autorizzati, ma a volte sono anche molto ampi. E però la legge che ha eliminato la commissione di massimo scoperto ha dato la possibilità di introdurre un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi e ha fissato un tetto dello 0,5%. Insomma, la situazione è stata ritoccata ultimamente, ma non si sa come questo tetto dello 0,50% non funziona e gli oneri sui conti in rosso sono aumentati anziché scendere. E a proposito di scendere, ieri sono scese in campo 3 associazioni dei consumatori che hanno formalizzato un'iniziativa con la quale chiedono alle banche di restituire ai cittadini le commissioni arbitrariamente, dicono loro, incassate, suggerendo anche ai consumatori di presentare ricorso all'arbitro bancario finanziario. Allora, cosa si deve fare? Oggi ci facciamo spiegare tutto da Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum. Picciolini, bentornato a Salva Danaio, molto spesso grazie, con noi. Buongiorno. Ci aiuta a capire tante cose, come si muove il mondo finanziario, qualche volta per noi, anzi il 90% dei casi, qualcosa di molto complesso che ci sfugge completamente. Poi naturalmente avremo anche la sponda bancaria per capire intanto qual è la reazione. Non abbiamo la risposta del sistema, ma di una grande banca italiana. Sentiremo Mauro Ugolini, responsabile dei rapporti con le associazioni dei consumatori di Banca Intesa San Paolo, per capire anche in questi ultimi mesi come per esempio questa banca ha rimodulato l'offerta in termini proprio di commissione di massimo scoperto, che dovrebbe essere stata eliminata, ma cercheremo di capire ovviamente come questa banca si fa remunerare comunque lo sconfinamento di conto, il rosso di conto, e quindi insomma sentiremo anche, vi ribadisco appunto, la sponda bancaria. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 è invece il numero che potete utilizzare per inviarci dei messaggi. Peraltro avevo già annunciato che avremmo fatto questa trasmissione, c'è già qualche ascoltatore che ci ha scritto, poi leggerò anche a Fabio Picciolini alcune mail, in particolar modo quella di Paolo, che ci scrive dal Vicentino e che ci racconta appunto quanto gli ha comunicato proprio la sua banca a questo proposito. Allora andiamo a vedere invece la borsa. Che oggi ha una mattinata altalenante, perché la giornata era partita piuttosto bene, addirittura gli indici hanno guadagnato oltre mezzo punto, poi abbiamo avuto un cambio di direzione a metà mattinata, adesso abbiamo un calo dello 0,53% su Francoforte, Parigi è sulla parità, Londra leggermente positiva più 0,20% e Milano è positiva ma di pochissimo, più 0,04%. Bene la Popolare di Milano a Piazza Affari, grazie alle scommesse relative alla scelta del nuovo partner per un'alleanza nel settore della banca assicurazione, inoltre il titolo ha un giudizio positivo dagli analisti di Credit Suisse. Bulgari più 1,87%, beneficia, anche se a quanto pare un po' in ritardo, dei conti pubblicati da Tiffany nei giorni scorsi negli Stati Uniti. In rialzo anche STM sulla scia dei risultati presentati nella notte da Intel negli Stati Uniti. Il colosso mondiale dei semiconduttori ha presentato una trimestrale migliore delle attese. STM era partita molto meglio, adesso è ancora in positivo per lo 0,24%. Generali rialzo di un punto, Autogrill più 0,8%. Scende invece Parmalat di quasi 2 punti, Pirelli meno 1,63, ribasso di 1 punto su CIR, su Italcementi, su Fondiaria e su Tenaris, mentre Fiat, che rispondeva piuttosto bene ai dati sulle immatricolazioni europee comunicate questa mattina dalla CEA, dall'Associazione dei Costruttori appunto Europei, adesso è in calo dello 0,28%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, il punto sulla commissione di Massimo Scoperto. Non c'è pace per i clienti che vanno in rosso sul conto corrente. Le nuove commissioni introdotte dalle banche in sostituzione del tanto odiato balzello del massimo scoperto sarebbero infatti ben più costose. Era un fatto già segnalato nei mesi scorsi dalle associazioni dei consumatori, che avevano lanciato l'allarme sui nuovi oneri. Ma a quanto pare i dubbi sulla legittimità delle nuove pratiche, definite commissioni per la messa a disposizione di fondi, non hanno convinto nemmeno l'autorità garante del mercato, che dopo aver condotto un'indagine tra le 7 principali banche italiane, ha inviato una segnalazione al governo e alla Banca d'Italia. In pratica, rileva l'antitrust, per chi va momentaneamente in rosso sul conto, gli scoperti transitori di conto corrente risultano aumentati fino a 15 volte rispetto alla vecchia commissione di massimo scoperto, che era la commissione pagata. Va un po' meglio per quanto riguarda i fidi bancari dopo l'entrata in vigore con il decreto anticrisi della scorsa estate, del tetto dello 0,50%. Non si è fatta attendere la risposta dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che dopo aver espresso perplessità sulle modalità con cui è stata condotta l'indagine, ha chiesto un confronto con l'autorità. Ma le associazioni sono già sul piede di guerra, tanto da aver avviato una class action, ovvero un'azione di risarcimento collettivo contro le banche. Non tutte le associazioni, bisogna precisarlo, noi alcune di queste le avevamo sentite ad inizio anno proprio nella trasmissione organizzata sulle modalità con cui è possibile, almeno in base alla normativa esistente, una class action, un'azione di risarcimento collettiva, ma Adiconsum, Adoc e Lega Consumatori, che invece hanno presentato un'altra iniziativa di un'altra natura ieri sulla commissione di Massimo Scoperto, hanno detto valuteremo se presentare un'azione di risarcimento su questo argomento, per cui Fabio Picciolini, ho voluto fare questa precisazione che credo forse volesse fare anche lei, giusto? No, ma giustissimo, ringrazio, mi ha aiutato. No, il discorso è abbastanza semplice. È possibile fare una causa collettiva o addirittura un'azione collettiva, però siamo sempre alle soglie. L'azione collettiva in Italia è stata introdotta, ma l'unica cosa buona è il principio, perché per il resto va veramente male. Se noi dovessimo fare un'azione collettiva su questo argomento come su altri, dovremmo passare sotto le forche caudine prima del giudice dell'ammissibilità, dopodiché della pubblicità, dopodiché delle persone. Allora noi abbiamo pensato a una cosa, crediamo, molto, molto più semplice sulla base di studi che hanno fatto il nostro centro giuridico, insieme a quello di Adoc e di Lega Consumatori. Cosa abbiamo detto? Il nostro centro giuridico cosa ha detto, e io lo condivido ovviamente a pieno, ha detto che rispetto alla norma, l'articolo 2 bis della legge 2 e rispetto soprattutto alla legge bancaria, le banche hanno fatto un qualcosa che non è previsto dalla lettera della legge bancaria e della legge numero 2. Perché? Perché hanno introdotto delle nuove commissioni quando la legge bancaria prevede che ci sia solamente la possibilità di modificare le condizioni già in essere, essendo condizioni nuove non sono previste dal contratto, ovvero l'articolo 2 bis della legge 2 dice che devono ricorrere alcune situazioni per poter prevedere delle commissioni. Io prendo subito la parte per il toro per le corna, la parte più importante. Dice per esempio l'articolo 2 bis che non è possibile la commissione di massimo scoperto sul fuori fido, ovvero per utilizzi superiori a quanto concordato nel contratto di apertura di conto corrente. Quindi in sostanza, se ho un conto corrente, ho un fido autorizzato di 1000 euro da parte della banca, la commissione di massimo scoperto mi può essere applicata fino al rosso di 1000 euro, andando oltre non si può applicare questo onere. Sì. Questo dice la legge. Le banche cosa si sono inventate? Che nel caso di fuori fido, e qui sarebbe avuto quanto un discorso a parte da fare, perché se uno va fuori fido vuol dire che comunque ha una disponibilità economica per poterlo fare. E quindi la banca è giusto che venga remunerata? Ha aumentato il fido probabilmente, si sono inventate un costo giornaliero, in alcuni casi per alcune banche anche molto oneroso, si arriva anche 8 euro al giorno, per appunto la situazione di fuori fido. Cioè è stato un po', secondo noi, è stato violare, non rispettare la norma così come l'hanno prevista sia il governo sia Banca d'Italia. Picciolini, un attimo motivo, solo però, capisco il principio che voi dite in sostanza le banche hanno trovato il modo, dico io, per uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, però lei contesta il fatto, le sembra corretto contestare il fatto che in ogni caso la banca venga utilizzata anche per una somma non messa a disposizione in maniera autorizzata da parte del cliente, quindi voglio dire, qual è il principio? È contestare la mole della commissione applicata se si va fuori fido autorizzato, o comunque proprio la commissione che contestate? Perché comunque può capitare, perché un cliente deve essere autorizzato ad utilizzare somme fuori fido a lungo, anche magari per importi notevoli, quindi non è una provocazione naturalmente, solo per capire di più. No, ma è una cosa estremamente giusta quella che stai dicendo, è una cosa su cui personalmente, ma la mia associazione, ma tutte le associazioni stiamo spendendo da tempo. Se una persona usa in maniera regolare il fuorifido, due possono essere le situazioni. Il primo, questo signore è messo male, diciamolo proprio molto chiaramente, per cui non riesce a stare in una situazione corretta rispetto all'accordo fatto. E quindi che non va, e bisognerebbe ampliare il fido allora, a patto che non sia già esagerato. Esatto, se questo signore però ha capacità reddituale, ha capacità di rimborso, a quel punto lì perché non alzare il fido e quindi applicare condizioni maggiori invece di giocare, tra virgolette, giocare su un maggior introito per la banca lasciando un fido più basso di quello che è effettivo. Detto questo, ma per tornare all'argomento del giorno, noi contestiamo da un lato l'aggiramento della, secondo noi almeno, l'aggiramento della norma così come è stata scritta, dall'altro lato diciamo che anche sotto l'aspetto economico pensare in un trimestre a 8 euro al giorno per anche 4 euro, porto l'assurdo, ecco, infatti. Fuori fido, ma non solo, ricordiamoci che queste qui sono spese di un certo tipo, esattamente, sono infatti, poi tutte le altre, infatti il principio è quello, pagate, che molto spesso è del tutto sproporzionato il rapporto fra l'entità del rosso e la commissione che ci viene applicata se questo rosso appunto non è autorizzato, quindi effettivamente il principio è anche questo, tanto che è la situazione questa. Picciolini, gliela faccio ascoltare subito, che è capitata a Rosa da Bologna. Rosa, buongiorno. Buongiorno. Allora, io, come dicevo prima la signorina, ieri ho ricevuto una telefonata dalla banca, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Bologna. Io in questa banca non ho operazioni se non che per pagare un mutuo, che è una rata semestrale, e l'assicurazione della macchina, che è così. Quindi loro quando mi sta scadendo mi chiamano, per la verità capita che ritardo una settimana, 10 giorni... per il pagamento del mutuo, oppure 2 o 3 giorni con l'assicurazione, perché tanto so che ci sono i 15 giorni di scoperta, e normalmente ci sono 50-60 euro, niente di più, insomma è un conto che non uso, mi serve solo per questo. Mi hanno detto che avevo saldato a giugno, pagato la rata, lasciato qualcosa come 70-80 euro in più, perché normalmente li lascio sempre, e che devo andare a saldare alle scoperte di 60-70 euro. Dico, come mai ho pagato il mutuo, non ho altre spese, ma sono spese di commissione, caspita, commissioni. Ho detto, ma annuali, perché c'erano anche altre cose, quanto pago? No, non annuali, sono trimestrali, insomma, in poche parole, io sono stata fuori con più di 100 euro per un certo periodo, e loro ogni giorno mi hanno messo 5 euro fisse di tassa. Questa, Rosa, è proprio, come dire, la situazione massimamente rappresentativa del problema di cui stiamo parlando questa mattina. Picciolini, sono 5 invece che 8, ma è quello che stavamo dicendo appunto. No, però voglio dire, per un rosso di 5 euro infatti è incredibile, è arrivata a maturare una commissione di 160 euro adesso su base trimestrale, per cui allora sono le 12:29. Picciolini, devo andare adesso subito in pausa. Io mi chiedo se intanto bisognerebbe vedere contrattualmente come definisce la Banca Popolare citata da Rosa questa commissione, qualora fosse una commissione che ritiene il consumatore opaca, non trasparente, e si tratta appunto di questa commissione di massimo scoperto che teoricamente dovrebbe essere stata abolita. Vediamo allora come Adiconsum suggerisce di intervenire per la restituzione di questa commissione, che in taluni casi appunto l'associazione dei consumatori ritiene sia stata arbitrariamente incassata dalla banca. Allora, la commissione di massimo scoperto, cancellata da una norma un anno fa, reintrodotta con modalità diverse dalle banche, anche perché effettivamente la legge non definisce completamente bene la questione, quindi ha dato l'opportunità anche di introdurre alle banche altre commissioni chiamate corrispettivo, per esempio per il servizio di messa a disposizione delle somme o di fondi. Beh, in sostanza tutto questo ha generato tanta confusione e anche il nuovo rilievo dell'antitrust dell'autorità garante del mercato è il nuovo intervento che è stato ufficializzato ieri di tre associazioni dei consumatori che intanto, denunciando le banche che secondo loro violano la legge con nuove e più costose commissioni, hanno chiesto un intervento del Parlamento che peraltro non abbiamo ancora specificato con Fabio Picciolini della Diconsum. Suggeriscono ai consumatori di chiedere alle banche di restituire le commissioni arbitrariamente incassate, magari valutando anche un ricorso all'arbitro bancario finanziario. Detto questo, Picciolini, però dobbiamo commentare il caso di Rosa, al quale prima di tutto però vorrei raccomandare: se ha bisogno di un'elasticità di conto corrente così ampia perché lei ritiene che magari una bolletta la vuol pagare più tardi piuttosto che la rata del mutuo, sul quale mi chiedo come sia possibile pagarlo 15 giorni dopo la scadenza della rata senza andare incontro ad un problema più ampio, raccomandiamo anche a Rosa forse un utilizzo un po' più prudente del conto corrente. Picciolini, o no? La signora innanzitutto sia opportuno anche per 1000 euro, 500 euro, quello che sarà possibile, se ha la capacità economica è meglio che apra un piccolo scoperto di conto, affidamento, apertura di credito, i nomi sono tanti. Per la sua situazione specifica era quella che abbiamo detto, per cercare di aiutarla, tanto per essere chiari, la situazione è molto semplice, lei basta che va sul nostro sito, ma anche su quello delle altre associazioni, in cui vedrà già c'è sia l'informazione su che cosa è accaduto e quindi se la riguarda in prima persona, c'è già un modulo da inviare, perché la procedura non è breve ma va fatta in maniera abbastanza formale. Prima di ricorrere all'arbitro bancario finanziario è obbligatorio passare per l'ufficio reclami della banca, che ha 30 giorni di tempo per rispondere. In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta si può ricorrere all'arbitro bancario finanziario presso Banca d'Italia. Il primo servizio è totalmente gratuito, il secondo bisogna fare un deposito di 20 euro restituiti nel caso che la persona che fa il reclamo abbia ragione. Della causa tra virgolette intentata, esatto, insomma, del reclamo presentato. È un reclamo a tutti gli effetti. Esatto, allora tra l'altro questo ABR è istituito da pochissimo tempo, come sta funzionando, Picciolini? Adesso, a prescindere dalla questione della commissione di massimo scoperto, voi vi state rivolgendo molto a questa nuova istituzione? Sono molte le domande già arrivate, siamo in attesa dei primi giudizi perché le domande sono iniziate ad arrivare a novembre, hanno un po' di tempo per rispondere, sappiamo che stanno chiedendo approfondimenti e questo già è molto importante, stanno chiedendo approfondimenti alle singole banche, quindi vuol dire che qualcosa che comunque va chiarito meglio l'hanno già compreso, che è uno dei passaggi fondamentali, quindi adesso aspettiamo le prime statistiche, le prime risposte, perché ci daranno, siamo fra quelli che dobbiamo averle. Mauro Ugolini, responsabile rapporti con le associazioni dei consumatori di Banca Intesa San Paolo, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ha avuto modo di sentire la prima parte della nostra trasmissione, so che lei è impegnato, tra l'altro ci concede pochi minuti perché poi lo dobbiamo lasciare ad altri impegni. E allora, insomma, un anno fa questa legge che introduceva l'obbligo per le banche di eliminare la commissione di massimo scoperto, lasciando però aperta la strada all'istituzione di altre commissioni, naturalmente, che remunerasse la banca per la messa a disposizione di fondi nei confronti della clientela. Allora, intanto, voi come avete ottemperato a questa normativa? Come avete rimodulato la vostra offerta? Perché tutto sommato le banche poi si sono mosse in questo modo, ricordando anche che alcune banche non hanno mai applicato la commissione di massimo scoperto, peraltro c'è qualche ascoltatore che ha rapporti con banche che non lo fanno e ce lo stanno segnalando. Ugolini. Allora, guardi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Intesa San Paolo, noi abbiamo cercato di rendere il più semplice, semplificare al massimo e il più confrontabile possibile la nostra nuova offerta. Prima parlavate appunto di due grandi tipologie di situazioni, quella dei clienti cosiddetti affidati, cioè quelli a cui la banca ha già concesso un fido, e quelli invece che hanno uno scoperto di conto occasionale. Allora, nel primo caso noi non abbiamo applicato nessun tipo di commissione, quindi la cosa è assolutamente semplice e confrontabile. Non l'avete mai applicata o non l'avete più applicata in seguito all'introduzione? Non l'abbiamo più applicata, ecco. Precedentemente era applicata la commissione di massimo scoperto, successivamente nel nuovo regime noi adottiamo un semplicissimo tasso debitore che un tasso che il cliente paga, ma non paga nessun tipo di spesa, nessun tipo di commissione di nessun genere. Mm. Quindi è una posizione assolutamente semplice e che va incontro, peraltro, come diceva precedentemente, anche allo spirito della legge da questo punto di vista. I non affidati, non so come si chiamino i clienti. Per i cosiddetti non affidati, cioè coloro che hanno uno scoperto di conto occasionale, allora la prima cosa da dire è che non pagano nessun tipo di commissione fino a 100 euro di scoperto. Questo è importante perché un caso come quello della cliente che ha poco fa telefonato non si sarebbe verificato con un'Intesa San Paolo. Fino a oltre i 100 euro noi abbiamo introdotto una commissione forfettaria giornaliera di 2 euro al giorno ed è considerato il massimo compreso nel trimestre di 100 euro, cioè il cliente oltre i 100 euro, o sotto i 100 euro non paga nulla e nel trimestre non può pagare più di 100 euro. Mm. Dottor, quindi anche qui molto semplice. Certo, quindi infatti effettivamente è vero, diciamo che poi ultimamente le banche che hanno rimodulato, come ribadisco, la loro offerta hanno voluto farlo proprio all'insegna della semplicità, perché poi il tema è quello, quando già apriamo l'estratto conto e non ci capiamo niente, il tema è anche fare in modo che queste commissioni, qualora ovviamente la banca abbia diritto di applicarle, siano quantomeno comprensibili al massimo. E allora le chiedo, Ugolini, come valutate l'iniziativa di queste tre associazioni di consumatori qualora vi arrivasse? Perché Picciolini ha spiegato il percorso, ovviamente la prima cosa da fare è non è andare subito all'arbitro bancario o all'associazione dei consumatori, ma rivolgersi all'ufficio reclami della banca. Qualora cominciassero, anche magari sentendo la trasmissione di oggi qui a Radio 24, ad arrivarvi molte richieste di precisazioni, perché in realtà non risultano queste commissioni applicate sui conti dei clienti proprio nella modalità così semplice come lei ce l'ha indicata? Perché può essere che qualche direttore di banca fa quello che vuole? No. Non è possibile? Questo non è possibile. Mm. Tra l'altro, in aggiunta a quello che dicevo prima, preciso che non c'è neanche nessuna commissione di disponibilità fondi di nessun tipo da questo punto di vista. Quindi il cliente, nel caso dei non affidati, non paga quello che abbiamo detto senza null'altro. Dopodiché, a proposito dell'iniziativa di Adiconsum, Lega Consumatori e Adoc, assolutamente legittima da parte loro, noi siamo assolutamente tranquilli che nella quasi totalità dei nostri clienti, affidati e non, il nostro nuovo regime sia conveniente per la clientela e in ogni caso il ricorso all'ABF è ovviamente legittimo, precedentemente ovviamente al reclamo verso la banca. Devo dire per completezza di informazione che oltre all'abito bancario, se il cliente volesse, per quanto riguarda Intesa San Paolo, abbiamo istituito proprio con le associazioni di consumatori, tra cui Adiconsum e Fabio Piccionelli che saluto, abbiamo istituito la possibilità di una richiesta di conciliazione con la banca che mette a riparo da eventuali problematiche che il cliente dovesse avere e che quindi a cui si può rivolgere indifferentemente come crede. È una scelta in più che il cliente ha e che è un'opportunità in più per la banca per conservare il rapporto. Benissimo, dottor Ugolini, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci spiegato anche le tipologie di commissioni che Banca Intesa San Paolo applica a seconda che si abbia un rosso autorizzato o meno, e quindi speriamo naturalmente che i nostri ascoltatori si trovino tutti in questa situazione anche di comprensione massima di questi oneri appunto applicati ai conti correnti qualora questi abbiano bisogno di sconfinare qualche volta. Picciolini, adesso le faccio commentare questo, peraltro mi piacerebbe anche sapere se avete individuato nel sistema bancario quelle che possono essere, insomma, le banche che sono un po' più restie ad applicare, pur nelle sue lacune, la normativa sull'eliminazione appunto della commissione di massimo scoperto. Le faccio sentire anche magari un altro ascoltatore, così poi continuiamo la nostra chiacchierata. Fabio Picciolini mi accompagnerà fino alla fine di Salva Danaio. Sentirei Massimo dalla provincia di Treviso, perché forse è l'ascoltatore che aspetta da un po' più tempo. Massimo, benvenuto. Sì, buongiorno, io volevo solo dire, io sono un commerciante e ho un'attività e lavoro con quattro banche. Il problema è che loro hanno tolto sì la commissione di massimo scoperto, però hanno introdotto la commissione sull'accordato, che è molto peggiorativa, perché mentre con la commissione di massimo scoperto tu pagavi solo le spese di gestione fido che ti venivano addebitate ogni trimestre o semestre, ora ti trovi che tu paghi una commissione sull'importo totale che loro ti hanno affidato. ed è totalmente peggiorativa. Mm-hmm. Massimo, il tema di cui stiamo parlando, come le banche si sono adeguate alla norma di cui stiamo parlando, l'articolo 2 bis della legge numero 2 del 2009, e come hanno praticamente colmato quello che veniva a mancare con l'eliminazione di questa commissione. Il suo caso è questo. Fabio Picciolini, da dove vuole cominciare? Ricominciare? Da Ugolini, perché da Ugolini, quindi da Banca Intesa San Paolo, del gruppo Intesa San Paolo, perché sulla prima parte della sua risposta io sono totalmente d'accordo, è quello che stiamo cercando di fare anche noi come associazione e con Banca Intesa lo stiamo anche facendo, è che la semplicità è l'aspetto fondamentale, cioè poi una persona decide qual è la banca per sé più conveniente, ma avere la certezza delle condizioni applicate, ad esempio come ha fatto il gruppo San Paolo, l'Intesa San Paolo, con un'unica voce che è il tasso di interesse non comprensivo, a noi sta benissimo. Siamo un po' meno d'accordo sul fatto, ripeto, ma non perché è i 2 euro 5 o 8, non è quello. Il problema è che secondo noi non viene rispettata la legge bancaria. Nel momento in cui fanno firmare un nuovo contratto, anche in questo caso sarà il cliente a decidere se il gruppo San Paolo, Inter San Paolo, è il migliore per le sue esigenze o meno. Quindi magari tutte le banche, io sinceramente, se magari altre banche scelgano o scegliessero di fare un tasso onnicomprensivo almeno per quello della prima parte. Per quello che riguarda il conto non affidato, oltre i 100 euro di sconfino, sì, di sconfinamento, i 2 euro al giorno. Non siamo molto d'accordo. No. Su questa parte non te lo ripeto, è perché il discorso è che secondo noi, e secondo il nostro centro giuridico, non è stato firmato un nuovo contratto, per cui era una condizione che non poteva essere immessa con la semplice comunicazione alla clientela. Questo è quello che noi non condividiamo per questa seconda parte. Per quello che riguarda l'ascoltatore di Treviso, mi permetto di partire un secondo da lontano. Questo signore ha 4 banche e quindi è una persona che sicuramente ha una situazione economica buona. Il consiglio da dare è di ridurre le banche, perché sicuramente ha troppi costi. Questo è un discorso di carattere. Bisognerebbe fare una valutazione di tutta la sua attività imprenditoriale, no, però magari ne ha bisogno. Ovvio, no, ma dico, però 4 banche incominciano a essere tante e i costi le posso assicurare che sono veramente alte, non è solamente il tasso di interesse o la commissione di massimo scoperto, sono anche molte di più. Quello che ha detto è giustissimo. Se vogliamo fare un attimino di cronistoria, all'estero in generale esiste la commissione di disponibilità, istruttore urgente, poi in Italia hanno dato 1000 nomi diversi, ma non esiste la commissione di massimo scoperto, e peraltro all'estero, in quasi tutti i paesi, non in tutti onestamente, è una commissione flat, ovvero è una commissione che paghi una volta nella vita. Quindi qui da noi invece, io ieri diciamo nella conferenza stampa 0,50 al momento dell'apertura, poi l'1 per 1000 o 2 per 1000 nel momento in cui ogni trimestre, insomma diventa una cosa che ha ragione il signore, e quello che poi ha detto il professor Catricalai, che l'ha detto ieri, l'ha ripetuto anche stamattina, mi risulta, è che poi alla fine abbiamo una situazione che non è migliorata per i conti affidati, diciamo così, tra virgolette regolari, e che è peggiorata fino a 15 volte per quello che riguarda i conti non affidati. Allora, c'è anche un po' di confusione fra i nostri ascoltatori, perché in realtà ovviamente quando si parla di conti in rosso i clienti delle banche sono perfettamente consapevoli che devono ovviamente riconoscere alla banca qualcosa, e che però c'è un po' di anche confusione su quella che era la commissione di massimo scoperto. Io vi do una definizione molto chiara che ho trovato in questi giorni, perché poi me la devo imparare a memoria per potervela raccontare bene, ma per farvi capire esattamente in cosa consiste, in sostanza è la percentuale che la banca applicava prima della normativa di cui stiamo parlando questa mattina sul massimo saldo negativo registrato durante un trimestre. Quindi veniva applicata per tutto il trimestre, anche se il cliente con un conto affidato andava in rosso per un solo giorno. Quindi io ho un fido di 1000 euro, vado però in rosso per 5 euro, la banca mi applicava questa commissione come se fossi andata in rosso per 5 euro per un intero trimestre. Picciolini, l'ho spiegata chiaramente? Il picco più alto di scoperto nel trimestre. Esatto. È quello che ha detto. Quindi un giorno poteva essere poteva anche esserci che non era mai in rosso il conto. Un giorno 5 euro, un giorno 8, un giorno 10, la banca mi applicava la commissione come se fossi stata in scoperto di 10 euro per tutto il trimestre. Esatto. E quindi chiaramente in sostanza era una situazione, un'anomalia che andava eliminata. Ha fatto una normativa, però non è stata molto chiara questa normativa, per cui chiaramente le banche hanno interpretato come meglio credevano questa situazione, questa norma, l'articolo 2 bis della legge 2 del 2009, e qualcuno appunto ha rimodulato l'offerta facendo, come io dico sempre in maniera molto semplicistica, uscire dalla porta la commissione e farla rientrare dalla finestra con altre modalità come corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme e altre cose che ci hanno raccontato gli ascoltatori. E quindi è una situazione ancora da risistemare, tanto è vero che la Diconsum, oltre all'invitare i consumatori a presentare ricorso agli uffici reclami delle banche e all'arbitro bancario finanziario, addirittura ha anche chiesto che il Parlamento ritorni sul tema riprecisando bene quello che voleva fare, quindi con un emendamento, no? Picciolini. Sì, sì, è in discussione la conversione in legge del cosiddetto decreto mille proroghe. E noi abbiamo chiesto a tutti i gruppi parlamentari, perché noi siamo in questa situazione, ovviamente non ci interessa chi sia la persona o il senatore o deputato che presenterà l'emendamento, abbiamo chiesto due cose: di modificare l'articolo 2 bis della legge 2 in due punti esatti. Il primo è quello che comunque si può applicare una sola commissione, o la commissione di massimo scoperto, ovvero la commissione di disponibilità, nei mille modi in cui l'hanno chiamato le banche. L'altro, il secondo capoverso, prevede che sono nulle queste clausole, queste commissioni create durante il 2009, perché non sono inserite nell'articolo, cioè non sono previste dall'articolo 118 del testo unico bancario, in quanto sono commissioni ex novo e non già previste contrattualmente e quindi sottoscritte originariamente o nel tempo da parte della clientela. Ci sembrano due norme di diritto abbastanza ovvie, però ovviamente aspettiamo che il nostro Parlamento si decida a fare queste cose. Quali parlamentari vi hanno aiutato? Chi ha firmato l'emendamento? No, onestamente l'abbiamo mandata ieri dopo la conferenza stampa. Noi speriamo che, ripeto, abbiamo mandato a tutti i gruppi, perché ancora non si sa se va Camera e Senato il mille proroghe, a tutti i gruppi parlamentari, vediamo chi farà propria questa battaglia. Vabbè, comunque era proprio una curiosità banalissima, ai nostri consumatori non interessa peraltro la patente politica dell'emendamento, chi se l'ha, esatto, l'importante è che vada nel posto giusto, insomma. Allora sentiamo qualche altro ascoltatore. Guglielmo da Bologna, buongiorno, rapidissimo, la ringrazio. Buongiorno, buongiorno. È un'avventura semplice. Io, siccome intendevo chiudere i rapporti con una banca, allora avevo annullato i pagamenti automatici e avevo lasciato dentro un centinaio di euro, come si usa per vedere gli ultimi saldi e poi portare a casa quel po' che sarebbe rimasto. Succede invece che questi erroneamente mi pagano un RID di un migliaio di euro. Io protesto e neanche mi rispondono. Mi rivolgo all'ombudsman bancario, il quale dà ragione alla banca, quindi grande delusione di un'istituzione che per me non vale nulla. A quel punto sa cosa ho fatto? Quando in chiusura di anno ho visto che gli interessi su quell'unica cifra che avevano pagato, perché dopo hanno smesso di erano moltiplicati a dismisura, 68% di interessi, io ho portato il fascicolo ai carabinieri direttamente, senza avvocati, senza niente. Sa cosa è successo? Due mesi dopo mi è arrivato un estratto conto a zero. Vuol dire che la banca ha pensato bene di chiudere la discussione, ha capito? E mi ha abbonato quello che secondo loro sarebbero stati gli interessi che gli dovevo, e la partita si è chiusa in questo modo. No, Guglielmo, adesso tra l'altro il suo caso non è esattamente, come dire, allineato alla tematica di cui parliamo questa mattina, però insomma il tema è che qualche volta bisogna proprio alzare la voce in maniera clamorosa. Peraltro Picciolini citava l'ascoltatore l'ombudsman bancario, che era questo organismo conciliativo di cui parte delle competenze sono finite proprio all'arbitro bancario finanziario. La parte credito e banca è passata interamente all'arbitro bancario finanziario. Faccio presente appunto che sul conciliatore bancario è un organismo del sistema bancario, nell'arbitro bancario finanziario, al di là dell'indipendenza del presidente, faccio nome per tutti, Valerio Nida, ex presidente di Corte Costituzionale, ma siamo presenti anche noi nei tre arbitri che esistono, Milano, Roma e Napoli, con un rappresentante anche non di estrazione dell'associazione consumatori, ma di estrazione consumeristica. Tanto per fare un nome, c'è Anna Bartolini. Ah, ecco, infatti, che l'abbiamo avuta anche, tra l'altro, sì, proprio rappresentando l'arbitro bancario finanziario, esatto. L'abbiamo ospitata a soldi dintorni. Il caso, esatto, di Guglielmo da Bologna, adesso a prescindere dal fatto che per lui l'esito della vicenda è stato positivo, ma perché ha avuto un'iniziativa, l'idea di fare un'iniziativa forte, per cui probabilmente la banca ha voluto mettere a tacere la faccenda, chiaramente non riteneva che fosse un onere tale da portare in causa, chiaramente, perché se fosse stata una questione più complicata dal punto di vista finanziario, probabilmente la banca avrebbe ingaggiato anche un conflitto un po' più forte con il consumatore. Detto questo, però voglio dire, insomma, non è riuscita ad annullare le RID. Aveva, no, mi sembrava, adesso chiaramente bisognerebbe vedere tutto il caso, no, senza mettere in dubbio quello che ha detto Guglielmo. Però io prendo per buono quello che ha detto il signor Guglielmo. La banca ha sbagliato due volte, non una, non solamente perché ha pagato e aveva una lettera ufficiale in cui il correntista, il cliente, aveva detto di non pagare, ma gli stessi contratti di conti correnti prevedono che una volta chiuso il rapporto non c'è obbligo per la banca di pagare nulla di ciò che è in sospeso. Questo è un articolo contrattuale di conti correnti, quindi da un lato mi sembra molto chiaro, lo dico, lei mi conosce, sa che parlo molto chiaro, secondo me sono fatto apposta, cioè perché così ci sono stati un po' di guadagni in più, qualche euro, lo motivi per molti clienti, e da un lato, e dall'altro lato c'è un comportamento, ripeto, a fronte di una richiesta scritta del cliente di chiudere i rapporti, addirittura correttamente ha lasciato qualche euro, qualche centinaio di euro perché sapeva che doveva esserci qualcosa, mi sembra che la banca abbia sbagliato due volte. Insomma, quasi insomma, che lei addirittura ipotizza un dolo, una situazione cercata, perché magari avrebbe potuto trovare parte, anche un cliente che non diceva niente, quindi avrebbe portato a casa. Esatto. Vabbè, ammettiamo che sia stata una svista, va, perché che... Vabbè, comunque, detto questo, un altro ascoltatore abbiamo un altro ascoltatore che ci ha scritto questa mattina. Paolo ci racconta di quanto gli è successo con la banca San Giorgio e Valleagno, un istituto di credito cooperativo della provincia di Vicenza. Ha ricevuto una comunicazione di recente: oltre a confermare la nuova commissione sul massimo scoperto, mi informa che in caso di utilizzo oltre il fido il tasso di interesse passerà dall'attuale 4,15% al 12%, da calcolare non sull'eccedenza come sempre è stato fatto, ma sull'intero importo utilizzato e per i giorni di fuori fido. Facciamo scrivere la DR a Paolo? Sì, no, questa situazione qui no, è assurda. No, non nel senso, va bene la DR, l'arbitro bancario finanziario, ma lo pregherei, se vuole, la nostra sigla internet è facilissima, se me la manda, è che questa qui siamo veramente fuori dal mondo, mi sembra. Benissimo, anche allora magari oltre altre cose. Sì, se vuole. No, senz'altro, magari così vediamo un po' meglio la documentazione, l'informativa, perfetto, che è arrivata a Paolo, ma non perché Paolo non abbia capito, solamente perché comunque volentieri. Un'altra cosa, che un'altra telefonata, forse ce la facciamo a sentire, magari Roberto da Milano. Buongiorno. Elisabetta da Cremona, so che voleva intervenire su quanto ci ha detto Ugolini prima su Banca Intesa. Non per non farle intervenire, Elisabetta, Ugolini non c'è più, non le può rispondere, ci scriva, noi li tormentiamo sempre, gli istituti bancari, e quindi scriviamo a noi se lei contesta quanto lui ha precisato. L'ultima riflessione è quella di Roberto da Milano, rapidissimo. Roberto. Sì, buongiorno, mi fa piacere che si parlato di abbia parlato Ugolini, perché il mio problema quindi anche è lei con Banca Intesa. Intesa San Paolo, no? Conto della mia ragazza, studentessa, pochi movimenti, quindi zero tondo, no? Niente di particolare, non ha fidi, non ha filataria. Ha solo una rata di un credito al consumo di 500 e rotti euro da pagare il 31 di ogni mese. Sì. Un mese è rimasta scoperta di credo 300 euro, il bonifico per coprire questo scoperto è arrivato il giorno 2, quindi due giorni di scoperto rispetto a queste 300 euro. Una settimana dopo gli sono state addebitate sul conto 48 euro ecco, di commissioni. Quindi allora, essendo euro, all'interno, giorno, tra l'altro dicevo, Roberto, conto non affidato, essendo all'interno, esatto, dei 100 euro non avrebbe dovuto pagare niente, secondo ci ha spiegato Ugolini prima, invece si è ritrovato quest'onere di 48 euro. Chiederemo spiegazioni anche su questo. Roberto, se ci può scrivere, ci istruisca bene la pratica in modo che la possiamo argomentare col dottor Ugolini di Banca Intesa, che è una persona estremamente disponibile, molto cordiale, per cui è sicuramente pronto anche a recepire le istanze che mandiamo dalla nostra trasmissione. Io devo chiudere perché siamo in ritardo, come al solito. Picciolini, grazie, buon lavoro, ci faccia sapere come va, eh? Grazie, anche lei a noi. Senz'altro, è tutto. Salvadanaio torna lunedì. Da Deborah Rosciani, buona giornata. Salvadanaio.